L'Europa apre ad Albania e Macedonia del Nord. Coronavirus, occasione di rilancio? Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. We should find a way that the parallel process for North Macedonia and Albania is that the door is open. I ministri degli affari europei, riuniti in videoconferenza virtuale, hanno dato il via libera all'apertura dei negoziati di adesione ad Albania e Macedonia del Nord, come annuncia via Twitter con toni di entusiasmo il commissario all'allargamento Vareli. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Buona giornata da parte mia, ma anche da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo è Lontano. Con me ci sono virtualmente Antonio Tali, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni. Invece qua con noi ci sono Luca Cremonesi in assistenza e Paolo Corleone che è in regia. Ci siete anche voi e potete farvi sentire, o meglio farvi leggere, al 349-238-6666, ve lo ricordo, è il numero che vale per SMS e WhatsApp e vale per domande, commenti e anche critiche. Ricordo l'unica semplicissima regola per partecipare alle discussioni qui a Nessun Luogo Lontano: non ammettiamo commenti xenofobi, razzisti e sessisti, per il resto liberissimi di esprimere la vostra opinione. Lo potete fare anche via Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, lì trovate anche la diretta video, e infine Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Su che cosa discuteremo quest'oggi? Lo avete sentito dai titoli, l'Unione Europea apre ad Albania e Macedonia del Nord, iniziano i colloqui quindi per l'adesione. In un momento così critico ed emergenziale, l'Unione Europea è di fronte a un'occasione di rilancio. Forse l'emergenza coronavirus potrà fare quello che altri scottanti dossier non hanno mai fatto, cioè riunificare l'Europa, forse per risorgere migliore di prima. Questo è il tema di quest'oggi. Aspetto i vostri commenti, ripeto, 349-238-6666, ma anche quest'oggi la prima cosa che faremo è sfogliare i grandi dossier internazionali. Il primo ci porta nuovamente a Kabul, in Afghanistan, e sembra, citando qualcosa di veramente prosaico, che piova sul bagnato. Oltre ai problemi politici di accordo tra talebani e il quasi doppio governo, Ashraf Ghani e Abdullah Abdullah, dopo le multe, tra virgolette, sanzionate da Mike Pompeo al governo afghano, ha tagliato $1 miliardo, lo dicevamo ieri, di aiuti all'Afghanistan, minacciando di tagliare un altro $1 miliardo se non vi fosse un accordo di unità nazionale che poi andasse anche a includere i talebani. Quest'oggi un attacco terroristico ha scosso la capitale. L'attacco è avvenuto nelle prime ore del mattino, ore italiane, in un tempio Sikh. C'è una folta comunità Sikh infatti nella capitale afghana. È stato un attacco suicida che però è stato il preludio a un'incursione di un commando di uomini armati. Parecchi i morti, 150 persone erano riunite nel tempio a pregare e sono state prese ostaggio. Le informazioni sono arrivate molto frammentarie, soprattutto nelle prime ore della giornata, tra Al Jazeera, che è una nota emittente che segue da vicino le vicende afghane, Matolo News, che invece è un'emittente afghana. C'era anche un balletto sia sulla durata dell'assedio che addirittura sul numero di vittime. Sarebbero al momento 25 le vittime, tra cui gli assalitori, e l'assedio sarebbe durato almeno 6 ore. È stato infatti difficile per le forze di sicurezza afghane rompere quella barriera di fuoco che gli assalitori avevano messo in piedi dall'interno del tempio Sikh. Vi starete chiedendo chi si è presa la benefica responsabilità di questo attacco. Non sono stati i talebani, che anzi hanno immediatamente respinto ogni responsabilità. Alcune ore dopo è arrivata la rivendicazione invece dell'ISIS, cioè lo Stato Islamico, che ha una sua fazione anche in Afghanistan. A proposito di formazioni terroristiche che sono, ahi noi, vive e vegete, nelle scorse puntate abbiamo acceso i riflettori sulla zona del Sahel, andando un po' più verso nord. Tra il nord-est della Nigeria e il lago Chad c'è una zona che ha vissuto momenti drammatici nella notte tra lunedì e martedì. In Chad, infatti, almeno 90 militari, qualche fonte dice 92, altri addirittura più di 100, dicevo, militari ciadiani sono stati uccisi in un attacco condotto da Boko Haram. È stata la stessa presidenza ciadiana a comunicare non solo il luogo ma anche il bilancio dell'attacco. Il luogo è proprio la città di Boma, sul lago Chad. E vi sarebbero anche decine di feriti. Il tutto arriva in un momento in cui Boko Haram che è quella formazione islamista che ha fatto tremare la Nigeria. A un certo punto ha instaurato un vero e proprio califfato nel nord-est appunto del paese, colpendo a un certo punto nel 2015 persino la capitale Abuja, la sede dell'ONU, facendo parecchi morti. Dicevo, a un certo punto quella formazione terroristica islamista si è scissa in due. Il leggendario capo Abubakar Shekau, dato per morto un sacco di volte, è sempre risorto con messaggi bellicosi, che guida una fazione che sarebbe responsabile di questo attacco, e un'altra fazione invece guidata da personaggi forse più ideologizzati, che si sono immediatamente affiliati all'ISIS. Dal 2009 questa crisi tra Nigeria e Chad ha portato a 30.000 vittime e 2 milioni e mezzo almeno di sfollati. Intanto sto leggendo i primi messaggi che arrivano al 349-238-6666. C'è già qualcuno che, come dire, mette a nudo quelle che possono essere le illusioni, le utopie sull'unità europea, ma fra pochissimo ve ne darò conto. Fatemi tornare su un altro dossier che ha scosso anche l'opinione pubblica europea, e è stato l'omicidio del giornalista saudita Khashoggi, lo ricordate, scomparso nel consolato saudita ad Ankara e poi mai uscito tutto intero. Ebbene, la Procura Generale di Istanbul ha firmato la richiesta di 18 ergastoli per gli indagati. Secondo le autorità, i giudici turchi, chi ha fatto le indagini, è stato un vero e proprio omicidio premeditato. Fin qua direte voi, tutto sembra tutto molto banale, se non fosse che, lo ribadiamo sempre, la verità giudiziaria non ha bisogno di certezze, di fonti, di prove, e non può basarsi anche su evidenze che per noi comuni cittadini che non abbracciamo la carriera giuridica sono anche delle ovvietà. Peraltro vi sono due figure che sono nel mirino degli indagati, perché sono quelli vicinissimi, ne abbiamo parlato in una puntata speciale di Nessun Luogo Lontano, al principe ereditario Mohammed bin Salman. Fra gli altri ci sono l'ex consigliere responsabile della comunicazione Saud al-Katani e l'ex numero 2 dei servizi segreti Ahmed al-Assiri. Nessun imputato, attenzione però, si trova in Turchia, quindi il processo potrebbe semplicemente non svolgersi mai. Vi porto brevemente anche negli Stati Uniti, ma in particolare in due stati, Texas e Ohio, perché l'emergenza coronavirus ha dispiegato un bizzarro effetto collaterale, forse il termine non è esattamente quello più adeguato, comunque, che ha provocato una levata di scudi da parte di tante associazioni che difendono i diritti delle donne. Sostanzialmente i due stati per l'emergenza coronavirus hanno dato una stretta a quelle che sono le prestazioni sanitarie, battezzando quelle che sono estremamente urgenti e necessarie e quelle che invece non lo sono. Tra quelle che non sono urgenti, hanno deciso di interrompere anche gli aborti non essenziali, senza precisare meglio quale sarebbe un aborto essenziale o non essenziale per la donna che decidesse di ricorrere a ciò. E tutti i medici che non dovessero osservare questa direttiva potrebbero rischiare da un lato una multa, quindi una sanzione pecuniaria di $1,000,000, ma anche il carcere fino a 180 giorni appunto di detenzione. Gli attivisti, chi si è scagliato contro questa decisione, dice: attenzione, questa mossa non ha nulla a che vedere con l'emergenza coronavirus, e secondo alcuni analisti si tratterebbe piuttosto di un rigurgito di conservatorismo da parte di alcune anime politiche che proprio in quegli stati fanno dell'antiabortismo una delle loro bandiere. Tanto che si è mossa anche la presidente della National Abortion Federation, Catherine Hancock Ragsdale, che ha detto: l'aborto rientra pienamente all'interno della categoria di assistenza sanitaria essenziale e strettamente legata all'aspetto temporale. Questi nostri dossier internazionali, lo ricordo, sono casi, sono fatti, sono notizie, eventi che arrivano dai quattro angoli del globo, che continuiamo a seguire e che diventeranno molto probabilmente approfondimenti di Nessun Luogo Lontano. Adesso però, Paolino, dobbiamo parlare di Europa. Per parlare di Europa naturalmente partiremo da quello che è il dato della stretta cronaca. Ieri l'Eurogruppo ha dato l'ok all'avvio dei dialoghi, ancora c'è in grande incertezza sulla tempistica per l'annessione all'Unione Europea, l'ingresso nella grande famiglia di due stati, la Macedonia del Nord, lo ricorderete il referendum che ha fatto cambiare nome, e l'Albania. Perché parliamo di questo quest'oggi? Beh, perché complice l'emergenza coronavirus, l'Europa è a tutti gli effetti a un bivio, o un punto di non ritorno, se volete. Dopo questa emergenza ci sarà un prima e un dopo. Così come in tante altre parti del mondo, quelle che vi raccontiamo qui quotidianamente, questa emergenza è destinata a ridisegnare gli equilibri, non solo quelli personali, individuali, ma anche degli assetti fra gli stati. Nelle scorse settimane abbiamo provato a raccontare questa emergenza raccontando come il corona fosse un acceleratore di crisi in alcuni casi, un faro che illuminava le fragilità, pensate ai sistemi carcerari, alla questione immigrazione, ai sistemi sanitari o più in generale uno stress test. Ebbene, quest'oggi ci chiediamo, e se fosse anche un'opportunità? Un'opportunità per ripensare l'Unione Europea, per rivedere magari certi meccanismi, per aprire ad altri paesi, in sostanza, senza retorica, per rinascere, diversi da prima, migliori da prima. Partiamo, direi, dalle congratulazioni. Poi vengo a voi, gentili ascoltatrici e ascoltatori che state scrivendo al 349-238-6666. Tra i primissimi a congratularsi per questa inizio di apertura delle porticine europee è stato proprio l'ambasciatore dell'Unione Europea in Albania, Luigi Soreca, che ha parlato in questo modo. Today is an historical day for Albania. The EU member states have taken the unanimous decision to open accession negotiation. I wish to congratulate Albania for the big step made towards becoming a new member. A big step, insomma, un grande passo. Io forse stavo sminuendo in maniera irriverente l'apertura della porticina, ma semplicemente perché ancora la tempistica non è esattamente chiara. Detto ciò, è un passo estremamente importante. L'Europa va a inglobare un pezzetto di quei Balcani che negli anni passati sono stati teatro e soggetti e oggetti anche di grandissime crisi. Vengo a voi al 349-238-6666, c'è qualcuno assolutamente spietato ma che vorrei che anche provasse a dispiegare e argomentare meglio l'Unione Europea, ovvero gli amici strozzini, no grazie. Qualche altro ascoltatore, l'allargamento ai Balcani è spinoso, sono paesi difficili, lo mette tra virgolette, potenziali nuove Bulgarie quanto a corruzione, ma non possiamo neanche rinunciarvi senza spingerli nelle braccia di russi e cinesi. Possiamo permetterci altre enclave imbottite di missili come Kaliningrad, così vicino a gasdotti e rotte mediterranee, così questo ascoltatore molto attento è uno di quelli più affezionati qui nel suo luogo lontano, che inizia a mettere un po' di puntini. Qualcuno invece punta il dito sul sottoscritto, illuso sull'Europa, fai sorridere. Sono prontissimo a ricevere le critiche, peraltro non è che io mi sto facendo alfiere di chissà quale europeismo, però è sicuramente un ragionamento da fare. Certo, tra poco sentirete la voce dei nostri ospiti, qualcuno sostiene che crisi dopo crisi l'Europa si è spenta, una lenta eutanasia senza mai risorgere. Forse però gli eventi che stiamo vivendo in questi giorni sono davvero eccezionali, sono straordinari nel senso etimologico, non è mai accaduto a livello mondiale, quindi forse potrebbe essere anche una occasione eccezionale. L'Albania è più avanti rispetto alla Macedonia del Nord, ma sempre drammaticamente arretrata rispetto all'Unione, così altri ascoltatori, tra pochissimo torno da voi. Fatemi però ricapitolare quelle che sono state un pochino di commenti anche dell'alta politica europea su questa decisione, e poi vi faccio sentire le voci da Skopje, perché sia la classe politica e culturale albanese ha gioito, così come quella macedone. Sembrava impossibile perché c'erano stati tanti ostacoli frapposti soprattutto da alcuni paesi europei che puntavano soprattutto il dito su che cosa? Alti tassi di corruzione, diritti della stampa per esempio, in sostanza un'arretratezza sul funzionamento di vari meccanismi e sullo stato dei diritti in questi paesi. Però ieri l'Eurogruppo ha deciso, dopo i miglioramenti che si sono palesati nei due paesi, di aprire appunto questa porta. In particolare la von der Leyen ha detto: il futuro dei Balcani occidentali è con noi, e questa frase è interessante perché evidentemente va a stressare l'aspetto nevralgico, quella zona è particolarmente sensibile, particolarmente delicata. Vedete, vi sono due tesi opposte, c'è chi dice, ed è il caso anche della Turchia, meglio avere un paese delicato da gestire, riottoso, abbracciarlo dentro la famiglia europea così sarà meglio controllabile, oppure meglio tenerlo fuori. Entrambe le tesi vengono corroborate da una serie di studi e di opinioni, e d'altra parte, come dire, ognuno è liberissimo di esprimerla. La mia, la dico pacatamente sottovoce, per quello che conta è, secondo me, che è molto più facile da gestire un paese, qua esco dal tema e vado su Turchia, a in seno all'Unione Europea, dando le regole, dando le sanzioni e modificando anche magari le discipline sanzionatorie europee, piuttosto che tenerla alle porte d'Europa e fare quello che a noi sappiamo sta facendo. Tra i paesi più scettici c'erano Francia, Olanda e Danimarca. Per esempio Macron ha sempre detto: no, non ci deve essere allargamento dell'Unione Europea finché non vi sarà una riforma all'interno dell'Unione Europea stessa. Andiamo lì a Skopje, andiamo a Tirana, perché proprio nella notte tra il 24 e il 25 marzo Nicola Dimitrov, che è il capo della diplomazia di Skopje, ha commentato via Twitter: nonostante gli ostacoli, la nostra perseveranza e tenacia hanno prevalso. La decisione dell'Unione Europea in questo momento difficile è il simbolo della sua forza. Sentite ancora Luigi Soreca, perché usa una metafora che non so quanti di voi apprezzeranno: l'Unione Europea come famiglia. What changed from today is that Albania has a new status vis-à-vis the European Union. From now on, a new set of rules will apply that will help the Albanian people as soon as possible to join back the family where they belong. Tornare a riabbracciare la famiglia a cui loro appartengono. Vi faccio sentire adesso la voce, l'analisi, ma anche un po' di pancia, un po' di termometro dal racconto di Goran Lekov, che è giornalista del Center for Investigative Journalism Scoop di Macedonia. Ci racconta come a Skopje è stata accolta questa notizia. Sentite. Questa notizia è stata accolta molto bene in Macedonia. Per un lungo periodo abbiamo sognato di poterci unire alla famiglia europea. Alla fine degli anni 60, ad esempio, la comunità europea aveva fatto informalmente delle aperture alla Jugoslavia, di cui la Macedonia faceva parte. Ma la Jugoslavia rifiutò quell'offerta. Poi, negli anni 90, dopo lo scioglimento della Jugoslavia, abbiamo continuato a sognare di poter entrare in Europa. A partire dagli anni 2000 ci fu la prima apertura. Paesi come la Slovenia e la Croazia sono entrati a far parte dell'Unione Europea, ma la Macedonia non ha potuto entrare a far parte di quel gruppo in quel momento. Poi è stata la volta di Romania e Bulgaria. Di nuovo non abbiamo potuto entrare nell'Unione per via del veto imposto dalla Grecia. Quindi sì, è una buona notizia. È una buona notizia per tutti i cittadini che sperano di poter entrare a far parte dell'Unione Europea il più velocemente possibile. La voce di Goran Lefkov, giornalista del Center for Investigative Journalism Scoop, Macedonia, ci ha parlato da Skopje per darci le ultime sensazioni. Qualcuno di voi al 349-238-6666 suggerirei di farci un giro in Macedonia del Nord. Si potrebbe constatare con mano quanto sia distante dai canoni europei di democrazia e legalità. Allora, la mia esperienza in Macedonia del Nord risale a pochi anni fa ed era proprio legata al traffico irregolare di migranti e alla cosiddetta mafia che gestiva quel traffico. In effetti devo ammettere che anche i canoni di movimento della polizia e delle stesse bande armate erano legate a qualcosa che noi in Occidente, nell'Europa occidentale, assolutamente non conosciamo. Ma evidentemente l'Unione Europea ha fatto una serie di valutazioni per dare anche fiducia, ha constatato e tastato i miglioramenti che i due paesi hanno fatto. Sempre 349-238-6666, ma stavolta via SMS, un ascoltatore va a anticipare quello che sarà uno dei temi che discuteremo tra pochissimo con due illustri politologi. L'Europa unita, semplicemente non abbiamo scelta se non vogliamo essere mangiati da Cina, Russia, Stati Uniti e pure dall'India. Ma che sia Europa unita, avverte l'ascoltatore, un solo ministro degli esteri, un solo esercito, un solo ministro dell'economia. Il processo di adesione all'Unione Europea però è un processo che si svolge nel tempo, è fatto di piccoli passi, quelli che l'ambasciatore UE a Skopje diceva grande passo. Beh, ce ne sono altri, di piccoli sono riforme che devono essere implementate. Sentite come Goran Lefkov, giornalista di Scoop Macedonia, questo centro investigativo giornalistico, identifica i passi che adesso la Macedonia del Nord dovrà fare per dare corpo a quello che per molti macedoni è un vero e proprio sogno. The main reforms that have to be implemented in North Macedonia. Le principali riforme che devono essere applicate in Macedonia prima di entrare nell'Unione Europea riguardano il sistema giudiziario. La corruzione è estremamente diffusa nel sistema giudiziario. Giudici e procuratori sono molto, molto corrotti. Questo rappresenta l'elemento più debole del nostro processo di adesione alla UE. Ci sono stati diversi scandali importanti, ma i casi di persone che sono state accusate di corruzione sono molto bassi. Personalmente ricordo un solo caso negli ultimi 30 anni che ha portato alla condanna di un politico o di un milionario. Tutto questo a causa della corruzione del nostro sistema giudiziario. Penso che in questo momento la corruzione sia la sfida principale. Negli ultimi anni abbiamo assistito a forti proteste contro la corruzione nel paese. E mi aspetto che nel futuro prossimo ci saranno alcuni cambiamenti. Sono necessarie alcune riforme e bisogna sforzarsi di applicarle. Anche se, a essere onesti, mi pare che nessun politico sia interessato ad ascoltare questi appelli a un buon sistema di riforme. A mio avviso, sarebbe necessario un sistema giudiziario inquirente più efficace. Un modello che potrebbe funzionare qui è quello italiano, come le procure antimafia e in generale con le procure indipendenti dal potere politico. Penso che questo modello potrebbe funzionare qui se venisse applicato. Quasi scorata alla fine il tratteggio che fa Goran Lefkov degli Scoop da Skopje, Macedonia, dicendo: beh, certo, dovrebbe esserci indipendenza del potere giudiziario e da quello politico, se venisse applicato sarebbe una cosa eccezionale. E non scorato, ma decisamente al vetriolo, l'ascoltatore che mi diceva che sono illuso sull'Europa, faccio sorridere, ha articolato un po' meglio quello che è il suo pensiero, venendo conto, per quanto piuttosto feroce, l'Europa intesa come vera unione statuale nascerà solo quando la Germania sprofonderà all'inferno. Ottima metafora riferita alla famiglia, ma poi aggiunte parenti serpenti. Vi faccio sentire ancora la voce di Goran Lefkov per capire quanto è importante per la Macedonia entrare a far parte della UE e possibilmente in un futuro anche della NATO. Sentite. In questo momento, da quello che vedo, non c'è un forte movimento di opposizione all'ingresso della Macedonia in Europa. Ci sono piccoli partiti di estrema destra e di estrema sinistra che contestano questa decisione, ma sono veramente molto, molto piccoli. Si tratta piuttosto di singoli individui che combattono la propria personale battaglia contro la NATO. Non vedo un forte movimento popolare contro l'ingresso nell'Unione Europea o l'adesione alla NATO. Questa è l'opinione di Lefkov. Torno alle nostre, perché questa puntata sta scatenando una lunghissima serie di commenti. Di questo vi ringrazio, perché non fate altro che arricchire il dibattito. Quello che ci stiamo chiedendo è se questa emergenza del Covid-19 possa essere, oltre a un dramma, anche una formidabile opportunità per ripensare l'Europa. Quello che non è riuscito a fare con altre crisi, quella dei migranti, quella della Libia, quella dell'Ucraina, quella della Turchia, se volete. In sostanza, un nuovo dossier si è aperto, l'Europa deve gestirlo, magari gestendolo meglio e diversamente potrebbe cambiare essa stessa forma. Un ascoltatore su Facebook: è plausibile pensare che questa ripresa dell'allargamento dell'Europa sia parte di un nuovo assetto economico post-Covid-19, intendendo con questo un'organizzazione produttiva più locale. E questo è un aspetto interessante che proveremo ovviamente a analizzare, mentre mi sento di stigmatizzare alcuni messaggi. In realtà, in particolare è uno che mi sembra che faccia dei cliché e di un certo pezzo, di una certa fetta della società albanese ne faccia un tutt'uno. Ma in Albania vi sono problemi enormi di civiltà, e già questo è assolutamente contestabile. Pensate alle faide familiari, all'immensa produzione di droga marijuana. Sì, c'è un'immensa produzione di droga anche in Calabria, per dirlo. C'è un'immensa infiltrazione di varie criminalità anche a Milano. Se pigliamo un singolo pezzo della realtà e lo assolutizziamo, non riusciamo, secondo me, a cogliere la realtà. Paolino, ce la facciamo a far sentire l'ultima, o vogliamo andare a sentire le borse? Incrociando sempre le dita? Facciamo le borse. Ok, allora incrociamo le dita, sentiamo l'informazione finanziaria, poi la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Buona giornata e ben ritrovati ancora una volta, ascoltatrici e ascoltatori. In queste settimane di emergenza coronavirus lo abbiamo trattato come stress test, come acceleratore di crisi, come faro che illuminava le nevralgie e debolezze di tanti stati in giro per il mondo. Quest'oggi vi lancio una provocazione: e se fosse invece una formidabile occasione per fare cosa? Beh, per ripensare l'Europa, per trovare un'Europa più unita, più solidale, che di fronte a una emergenza comune si comporta come mai non aveva fatto prima. Nessun dossier fino adesso, di quelli grossi, di quelli pesanti e posizionati sui tavoli di Bruxelles, l'ha mai unita. Pensate all'Ucraina, pensate alla Libia, alla questione migratoria, al comportamento della Turchia. E se fosse il coronavirus, incredibilmente, sia virus che medicina per un'Europa malata. Buongiorno e benvenuti a Nessun Luogo Lontano a Nadia Urbinati, politologa, giornalista, professoressa di scienze politiche alla Columbia University di New York. Professoressa, buongiorno. Buongiorno a voi. E buongiorno anche a Giovanni Orsina, storico dell'Europa, docente alla LUIS di Roma. Professor Orsina, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Allora, con i miei graditi e autorevoli ospiti inizierei con dalla fine, per così dire, cioè quanto è valida questa tesi. Siamo a un punto di non ritorno, prima e dopo questo coronavirus appunto avremo un ante e un post. È un'occasione di rinascita, un ennesimo passo di una lenta forse eutanasia dell'Unione Europea. Professoressa Urbinati, secondo lei? Può essere l'uno e l'altro, ne parlavano anche economisti che hanno... italiani che hanno pubblicato insieme un documento con tantissime firme di adesione, e ne ha parlato anche in questa lettera che Conti insieme ad altri leader dell'Europa, diversi di loro, nei paesi che più hanno sofferto e stanno soffrendo per il coronavirus. Quindi c'è la possibilità di ricostruire una politica, un'unione politica europea solidale su basi anche fiscali e di comuni politiche sanitarie ed economiche, oppure ciascuno andrà per ordine sparso, il che significa che i paesi più deboli dovranno sottostare a regole ancora più dure, con una grossa difficoltà per noi soprattutto, ma anche per la Spagna, per il Portogallo, ora sembra anche per la Francia e l'Irlanda, di poter risollevare le loro economie e il loro tessuto sociale in poco tempo, relativamente breve, insomma. Sì. La voce che sentite è quella di Nadia Urbinati, politologa e anche una firma giornalistica, insegna scienze politiche alla Columbia University di New York, ha così uno sguardo privilegiato in qualche modo tra quello che è il vecchio e il nuovo continente, così come Giovanni Orsina, che è l'altro ospite, che è storico dell'Europa, insegna alla LUIS di Roma, al quale, come dire, mi rivolgerei attingendo anche alla sua conoscenza e alla sua esperienza di storico. La storia dell'Europa ci ha consegnato tante crisi, professor Orsina, dalle quali l'Europa si è più o meno risollevata. Questa forse ha qualcosa di diverso rispetto alle crisi che abbiamo vissute fino adesso, o no? La crisi no, sicuramente, a parte che ovviamente nella storia, ma questa è una banalità, tutte le crisi sono diverse l'una dall'altra, ma poi le altre crisi erano crisi che non avevano a che vedere con una sfida sanitaria, insomma, erano cose che avevano a che fare molto spesso con vicende di natura umana, quindi con meccanismi e con trasformazioni che venivano dal mondo degli uomini, non come in questo caso dal mondo della natura. Ma l'Europa ha sempre, diciamo, utilizzato le crisi per crescere, c'è sempre stato comunque una componente di crisi che ha consentito di fare dei passi in avanti. Pensiamo ad esempio negli anni 70 ai primi passi dell'integrazione monetaria, che sono legati naturalmente alla fine del gold standard, alla fine degli accordi di Bretton Woods e quindi alla fine, diciamo, della supplenza americana, dell'ancoraggio delle valute al dollaro, che crea tutta una serie di problemi, di shock petroliferi. Gli anni 70 sono anni di crisi profonda, dai quali poi l'Europa esce col sistema monetario europeo e poi con l'atto unico. Pensiamo ovviamente a Maastricht, che sì, non può essere immaginato in maniera disgiunta dalla fine del blocco comunista, la caduta del mondo di Berlino, del muro di Berlino, la riunificazione tedesca. È chiaro che sono tutti elementi collegati. Dov'è che questa crisi, secondo me, è diversa, al di là del fatto, come detto, che tutte le crisi sono diverse l'una dall'altra, e al di là del fatto che è una crisi di natura sanitaria? Che siamo arrivati passo dopo passo dopo passo molto vicini, diciamo così, al sanctorum della sovranità nazionale, cioè l'Europa è andata avanti per cessione di sovranità nazionale, avvicinandosi sempre di più al nucleo duro della sovranità nazionale, però ovviamente man mano che si avvicinava a questo nucleo, essendo questo un nucleo appunto duro, trovava faceva sempre più fatica. Sì. E in qualche modo il blocco dell'integrazione europea, la fase d'arresto di questi ultimi anni dell'integrazione europea, è legata proprio alla difficoltà di rompere quest'ultimo nocciolo, di fare quest'ultimo passo, e la mutualizzazione del debito, la costruzione degli eurobond, quindi l'idea che il debito sovrano non sia più sovrano delle nazioni ma sia sovrano dell'Europa, è naturalmente uno dei passaggi cardine. Certo, chiarissimo. Questo è il punto, è questo il, qui siamo arrivati, però a rompere questo, certo. Sì, è un passo in avanti, però professor Orsina, professoressa Urbinati, molti ascoltatori mi segnalano al 349-238-6666, l'Europa è unita più o meno, esiste, ma funziona solo la moneta, non c'è politica estera unica, non c'è legislazione fiscale unica, eccetera, eccetera, e sto riassumendo tanti messaggi che arrivano, e i dossier che elencavo prima, dalla crisi libica a quella ucraina fino al braccio di ferro, a questa leva così spregiudicata di Erdogan sulla questione migratoria, sull'Europa, sta dimostrando che non esiste una politica estera. Cosa potrebbe scattare con questa crisi del coronavirus di diverso nei singoli stati nel tentare di abbracciare, per esempio, una politica estera comune? Professore Urbinati, su questo. Ma politica estera comune e soprattutto il ribadire i principi fondamentali su cui l'Europa è nata, ovvero il mercato comune. Noi abbiamo avuto casi recenti di blocco di alcuni materiali fondamentali per la salute, in questo momento dalle mascherine o altro, blocco all'interno degli stati europei. Quindi ci sono addirittura tentativi di andare contro quella che è la base dell'Unione Europea. C'è poi un altro elemento importante che è emerso in questi giorni di difficoltà, che sembrava tutto più semplice, insomma fino a qualche giorno fa, poi sono cominciati i problemi relativi alle formule giuridiche che la BCE deve trovare per rendere compatibile, diciamo, con i trattati europei ad acquistare titoli definitivi di bond, eccetera. Qui c'è un blocco in questo momento, che è legato anche alla fiducia. Probabilmente non c'è all'interno degli Stati europei, nel rapporto tra gli Stati europei, quella condizione di fiducia che c'è, che dovrebbe esserci tra una parte degli Stati e l'altra parte degli Stati. Per esempio, alcuni Stati del Nord Europa sembrano essere in questo momento ancora una volta molto dubbiosi sulla capacità di tenuta degli Stati del Sud o comunque dell'area latino-mediterranea. E ritornano questi problemi progressivamente ogni volta che ci sono situazioni di grandissimo disagio, sì, o di grande crisi come oggi. Il, sì, fatto è che in questo momento il problema è serio, anche perché non riguarda soltanto gli Stati in più grande difficoltà o tensione, diciamo dal punto di vista della del coronavirus, dell'impatto che ha, ma riguardano le economie intere, per cui un paese come l'Italia o come la Francia o come la Spagna o come il Portogallo, questi paesi che hanno difficoltà dal punto di vista del ritorno alla normalità, come ce l'avranno in una maniera straordinaria, più che altri paesi, più dell'Olanda probabilmente, più della stessa Germania, impatteranno necessariamente sugli altri paesi che oggi si ritengono più sicuri. Ecco, sì, perché avere una politica comune nel settore finanziario, in quello climatico e in quello della sanità è oggi più che mai un problema per tutti i singoli stati membri e non semplicemente per l'Unione Europea in sé, per, certo, una comunità europea in, certo, sé. Chiarissimo la tesi di Nadia Urbinati, Scienze Politiche, Columbia University di New York. Torno brevemente, prima della piccola pausa che faremo per la viabilità, dal professor Orsina Luis di Roma, insegna storia dell'Europa. Professore, un po' di ascoltatori al 349-238-6666 salutano con favore l'inizio dell'allargamento a Albania e Macedonia del Nord, e in particolare Daniela da Modena fa un'osservazione interessante: l'allargamento servirà a molte cose, tra cui controllare l'azione di Russia e Turchia sulla zona e anche allargare il cosiddetto Club Med, insomma fa riferimento a quello che è diciamo l'Europa a due velocità, quella del nord e quella più strettamente mediterranea. Si è tanto speculato, ci si è divisi anche, no? Se si dovesse in qualche modo cristallizzare, istituzionalizzare questa Europa a due velocità. La tesi dell'ascoltatrice è duplice: da un lato il club dei quelli del sud, diciamo, si allarga, diventa forse più forte, dall'altro teniamo a bada gli appetiti di qualche attore che è piuttosto muscolare, Russia e Turchia. È d'accordo da questo punto di vista, professore, con uno slogan, perché poi facciamo una pausa e ascoltiamo volentieri più articolata la sua opinione. Sì, no, lo slogan è un segno di vitalità della costruzione europea ed è un segno appunto di capacità dell'Europa di penetrare in zone da sempre storicamente calde. Detto questo, il cuore del problema è altrove. Allora, e ce lo dice tra pochissimo. Ce lo dice tra pochissimo perché è stato bravissimo. C'è un hashtag vitalità e poi c'è un teaser. Il problema è altrove. Ce lo racconta tra pochissimo. Viabilità. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Siamo partiti dalla riunione dell'Eurogruppo di ieri che ha dato l'ok all'inizio del processo di adesione ad Albania e a Macedonia del Nord all'Unione Europea. La grande famiglia europea, così qualche ambasciatore ha definito, si va ad allargare proprio in un momento in cui l'emergenza coronavirus potrebbe, e questa è la domanda che ci stiamo facendo e vi faccio, potrebbe essere un incredibile trampolino, un volano per ridisegnare l'Unione Europea. Molti di voi al 349-238-6666 sottolineano questo aspetto, forse un'Europa nuova che vada a rivedere anche i meccanismi decisionali interni, potrebbe essere un'Europa che piace. Piace agli ascoltatori che scrivono al 349-238-6666. Torno però al professor Giovanni Orsina, storico dell'Europa, insegna alla LUISS di Roma, che ci ha lasciato con due hashtag: vitalità, intendendo l'Europa che si allarga e va ad abbracciare Macedonia del Nord e Albania. Penetrazione, nel senso che è un'Unione Europea che va a sporcarsi le mani, tra virgolette, ovviamente con tutta la delicatezza possibile di questo termine, in una zona, quella dei Balcani del Sud, che è funestata da una serie di problemi. Però, diceva il professore, il problema è altrove. Dov'è, professor Orsina? C'è poco da fare, insomma, questa crisi è una crisi prevalentemente che avrà degli effetti prevalentemente economici, che quindi occuperanno la costruzione europea nei prossimi mesi e che tocca prevalentemente l'Eurozona. Cioè il vero punto cruciale è se l'Eurozona sarà in grado di rispondere in maniera solidale a questa crisi oppure andremo in ordine sparso, lo diceva bene, prima molto bene Nadia Orbinati. E allora rispetto, per dire, diciamo, utilizzando un esempio molto, molto chiaro, molto semplice, se paesi come l'Italia o la Spagna o addirittura la Francia entrano in una recessione economica importante e il veto dei paesi del nord non consente di dare a questo una risposta europea e quindi ciascun paese se la deve poi sbrigare da solo, sì. Di fronte a questo, con tutto l'affetto e il rispetto per la Macedonia e l'Albania, certo, quel segno di vitalità perde la gran parte del suo senso, per essere chiarissimo, chiarissimo e anche spietato, se vogliamo. Il professor Orsina si occupa di storia dell'Europa, ma in questo momento ha sfregato in qualche modo la sfera di cristallo. D'altra parte, ascoltatrici e ascoltatori, è un momento straordinario, eccezionale. Forse possiamo anche permetterci pochi minuti di speculazione pura su cercare di capire se davvero questa Europa avrà la forza di ridisegnarsi e di avere finalmente una politica estera comune, un esercito comune. Perché, sapete, di fronte a pesi massimi come la Cina, la Russia per altri motivi, l'India, evocata da qualche ascoltatore, gli Stati Uniti, o si iniziano a mettere su chili, oppure, e fatemi appoggiare la metafora pugilistica, si va al tappeto in poco tempo. Ma questa è la mia personalissima opinione. Torno da Nadia Orbinati, che ci soccorre in questa analisi. Professoressa, però, mi sembra che, come dire, la questione economica e finanziaria stia fagocitando un po' tutto, quando in realtà è tremendamente intracciata con quella politica. Come si fanno a smussare certe arroganze politiche in seno all'Europa? Vi sono altri modi? Sto pensando a Macron, che per esempio sulla politica estera e il riavvicinamento all'Iran è fortissimo e lui lo vuole fortemente. La Germania sappiamo come si comporta dal punto di vista più strettamente economico. Boris Johnson che cosa ha fatto con col Regno Unito. Come si riescono a smussare queste leadership così egoistiche, lasciatemi questo termine, politicamente evidentemente? Beh, con i realisti, di scuola realista si dovrebbe dire in questo momento che è la necessità che smusterà queste, se le smusterà, se ci saranno leader diciamo con una certa lungimiranza, non come quelli che con la crisi del 2008 avevano l'opportunità, i leader dell'Europa mediterranea, anche perché avevano governi simili, tutti diretti da centro-sinistra, di fare un fronte o comunque di aprire un problema di diverso modello politico e fiscale ed economico per l'Europa. Non successe, quindi poca lungimiranza. Sarà una necessità, forse la necessità è la moneta corrente più forte e anche la più efficace, potrebbe essere, poiché di fronte a problemi di grandissima stress, di grandissimo stress che noi conosciamo molto bene, siamo chiusi nelle nostre case, ma lo sono anche i cittadini dell'Europa del Nord, di fronte a questi problemi, che avrà un impatto diverso, verissimo, diverso nei vari paesi a seconda dell'organizzazione sanitaria che hanno, a seconda degli sprechi più o meno diciamo perpetrati che hanno avuto. Sì. Comunque, indipendentemente da queste diversità, c'è una comune condizione di necessità. Ora si tratta di vedere, rispetto a questa comune condizione di necessità, se i leader avranno la lungimiranza e la saggezza di poter riprendere in mano le briglie politiche e fiscali dell'Unione Europea. Se non ci riescono, come si diceva prima e come anche il professor Orsina diceva, noi andremo verso situazioni davvero imprevedibili, poiché per l'Italia sarà un disastro, ma lo sarà anche per altri paesi e lo sarà per l'Europa intera. Quindi in questo caso la necessità milita a favore di un coordinamento e di visioni comuni. Vediamo se questo sarà il caso. Sì. Adesso apriamo l'ultimissimo capitolo che ho provato a, come dire, a sussurrare in questa nostra chiacchierata con i miei due ospiti, Giovanni Orsina e Nadia Urbinati. Un po' di messaggi, alcuni sono interessanti. Claudio ci ascolta da Berlino e dice: farmacos in greco, farmacum in latino, è sia medicina che veleno. Così vedo e cerco di capire il Covid-19 nei confronti dell'Europa. Qualcun altro invece, che torna su quelli che sono gli aspetti prettamente economici, ma per favore, se sul MES nulla si muove, l'allargamento della UE è solo una furbesca velleitaria fuga in avanti, fuori tempo. Così Alex, l'Europa ha bisogno di un grande consenso che oggi manca, ci vorrebbe un grande impegno centralizzato e condiviso. E un ultimo ascoltatore che dice, mi dice testualmente di piantarla e chiede: ma perché la Svizzera è più grande o l'Inghilterra? Tanto prima o poi ci saranno le elezioni e ce ne andiamo. Così un ascoltatore evidentemente euroscettico. Professor Orsina, che cosa ci insegna la storia dell'Europa di fronte agli attacchi, lo metto tra molte virgolette in senso molto lato, di attori stranieri? Ripetiamo: la Cina, la via della seta, la cosiddetta diplomazia della mascherina. Attenzione, continuano ancora a girare termini che sono scorretti rispetto all'aiuto. Non sono aiuti, sono cose che stiamo pagando. La Russia, guarda caso un ascoltatore mi scriveva prima, è sull'autostrada un camionista, ho visto passare un convoglio militare russo. Ecco, come si difende l'Europa così com'è da questi appetiti, non necessariamente bellicosi, ma è evidente che c'è un desiderio di egemonia rispetto a questa Europa? Ma no, ma il discorso, diciamo, sulla taglia e la necessità di aumentare il proprio peso specifico, la metafora pugilistica che faceva lei prima, io credo che quello sia un discorso, diciamo, è indiscutibile. È evidente che nel momento in cui avanzano i processi di globalizzazione e la competizione mondiale si svolge fra entità grosse economicamente, demograficamente importanti, come possono essere la Cina o gli Stati Uniti, è evidente che tu certe risposte le devi dare cercando di coordinarti a livello europeo, perché se riesci a coordinarti a livello europeo conti di più. Cioè, questo non è un perdere potere, ma è un cercare di riacquistare potere stando tutti insieme. Io di questo sono assolutamente convinto. Se posso interromperla, c'è un però, l'abbiamo visto nella recente storia, sulla redistribuzione dei migranti, sto un po' generalizzando, però il blocco Visegrad si è messo di traverso. Le sanzioni europee non servono a molto. Come si fa, e mi riaggancio anche a alcuni ascoltatori che scrivono, va bene l'allargamento, ma se non ci sono delle discipline anche sanzionatorie e non puniamo quei paesi che non si uniformano, non esiste davvero la politica europea. Come si fa a essere virtuosi se si dice ridistribuiamo i migranti e poi però l'Ungheria non se li prende e non lo fa? Ma questo è il punto. Il punto è che l'idea della, fermo restando che se ragioniamo in chiave globale è chiaro che ai paesi europei e all'Europa conviene muoversi come un attore solo e non come 27 attori separati l'uno dall'altro. Però questa convergenza deve essere una convergenza che ha una sua organicità, cioè non può essere una cosa troppo artificiale, non può essere una cosa troppo forzata, cioè ci deve essere un elemento di convergenza reale. Se questa convergenza è una convergenza piena di riserve mentali, piena di dubbi e diventa semplicemente un tentativo di fare il free riding, cioè di ottenere il massimo per sé all'interno del club, questa roba non può funzionare. Però non nascondiamoci neanche dietro un dito, mica sono i paesi di Visegrad, cioè sono tutti i paesi europei che si comportano in questa maniera. Non è che i grandi paesi siano paesi che non badano al proprio interesse nazionale, la Francia, la Germania, assolutamente. L'Italia, se fosse un po' più coordinata, lo farebbe anche un po' più intraprendente, forse spregiudicata. Diciamo che su vari dossier ciascun paese europeo ha le sue priorità, è come se avessimo tante agende diverse, priorità diverse messe insieme, shakerate, a volte esce qualcosa d'europeo, a volte no. Io sono in chiusura, però ringrazio tantissimo sia la professoressa Nadia Urbinati, lo ricordo, è politologa, ma potete leggere anche i suoi pezzi giornalistici, insegna scienze politiche alla Columbia University di New York, che il professor Giovanni Orsina, storico dell'Europa, insegna alla LUIS di Roma. A entrambi una buona giornata e un buon lavoro. Ci sarebbero tantissimi messaggi, ne leggo solamente uno che forse riassume un po' il tutto: o Stati Uniti d'Europa oppure Italia fuori dall'Europa. Questa era una delle tante anime, delle dinamiche che hanno appunto animato questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Adesso ad animarmi c'è la voce di Paolo Corleone. Rispondo agli ordini, lancio i titoli di coda, i ringraziamenti a tutti gli ospiti, a voi che siete stati all'ascolto, alla squadra di Nessun Luogo è Lontano. L'appuntamento è per domani, ore 16. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.